Blue Time. Blue Time Live. Blue Time. Live. Maurizio, ti piace come inizio? Sì, certamente. Buonasera Agostino. Buonasera, buonasera a tutti voi. Buonasera da Blue Radio Veneto, buonasera dalla voce di Agostino Spallone, quella di Maurizio Calzavara. Ben ritrovato a distanza di 24 ore, Maurizio. Esatto, sì. Siamo ritrovati. La musica ritrova sempre. Sì. Siamo ripartiti con la stessa melodia dell'anno scorso, perché insomma un po' di scaramanzia ci vuole. È andato benissimo questo avvenimento, questa rassegna Sognando Broadway l'anno scorso. Avuto un successo enorme, quest'anno si ripresenta ancora più carichi, ancora più con la voglia di stravolgere un po' quelle che sono le previsioni, e insomma noi ve lo auguriamo. Ciao compagnia Mouge. Ciao. Chi sono i Mouge? Ce lo dici tu? Ma sei sempre qui, cioè, ormai fai parte della tappezzeria. Io a fine settembre monto la canadese qui fuori e poi la smonto a fine dicembre. Allora, lui è Cesare Bortolotto. Prima di presentare comunque come di consueto i nostri ospiti, vi voglio ricordare i nostri dati e assolutamente i numeri telefonici, perché questa sera vi serviranno per vincere due biglietti. Ve lo dico, prestate attenzione poi quando ci sarà la domanda, perché i posti per Mamma Mia non ce ne sono più, quindi chi volesse venire a vedere il musical Mamma Mia, che si terrà sabato prossimo al palazzetto, al Polivalente di Albignasego, non ci sono più posti, quindi l'unica possibilità è solamente quella di partecipare al giochetto di questa sera e vincerete due biglietti, quindi una coppia insomma può entrare tranquillamente a vedere questo spettacolo. Allora, i nostri numeri telefonici, attenzione, 049 875 6423, mentre gli sms 346 2320 033. Ve lo ripeto, carta e penna, ancora una volta, il nostro numero in studio, 049 875 6423, mentre per gli sms 346 2320 033. Poi ancora le nostre frequenze, 88 700 94 600 MHz in modulazioni frequenza, il nostro sito www.blueradioveneto.it. vado veloce perché ci sono tanti ospiti da presentare questa sera. E poi ancora le nostre pagine su Facebook, cioè semplicemente Blue Radio Veneto, una, l'altra Blue Radio Veneto Rock Wave. E poi ancora, se volete scrivermi nella mia pagina, cioè nella pagina di Agostino Spolaore, io sono collegato in diretta, quindi posso anche leggere le vostre domande, quello che volete chiedere a questi nostri ospiti. Credo di aver detto tutto velocemente, insomma. Maurizio, lascio a te adesso il proseguo della chiacchierata. Sì, cari mamma mia, cari partecipanti a questa nuova avventura, la terza avventura, la terza stagione. Per Sognando Broadway, per Sognando, sì, vero, sì, sì, esatto, terzo anno. Io ho visto sulle note di copertina, ho letto le note, e c'è un cambiamento, una ventata nuova che giunge con Mamma Mia, sì, con questa terzo anno consecutivo. Abbiamo un po' rinnovato, il cast, più che rinnovato abbiamo cambiato un po' dei personaggi principali del cast. Non è che gli altri non ci sono più, abbiamo due cast, e questa data viene fatto con quale spirito c'è stata questa rivoluzione, mini rivoluzione? No, più che altro è solamente dovuto al fatto qualcuno che si è fatto un gesto non prettamente è così. No, è solamente questo è necessario. Mm-hmm. Avendo diverse date bisogna avere più di un cast, perché può succedere, certo, che una persona non possa, e allora dobbiamo premunirci e salvaguardarci da quindi possibili assenze. Hai istruito per l'ennesima volta le parti diverse, hai ricostruito come hai fatto con tutti gli anni. È stata una questione faticosa anche quest'anno o bella come gli anni scorsi? Diciamo che le persone comunque le persone che fanno delle parti nuove in realtà facevano già parte, quindi già parte già di Mamma Mia, e perciò già lo spettacolo lo conoscevano. Magari la loro parte non l'avevano mai fatta. Però alla fine ci è voluto molto meno tempo che non partire da zero con tutti quanti. E questa è una cosa molto positiva, molto meno tempo. Quindi eravate già tutti pronti, tra virgolette. Certo, insomma, certo. Tra virgolette. Si sono presentati anche con tutti quanti con la maglietta, hai visto? Esattamente, questa è una novità assoluta. E le ragazze color rosa, giustamente, i ragazzi color blu. Blu profondo blu. Cosa manca? Dici? Un tocco di nero. Blu cobalto. Mancherebbe un tocco di nero, vero Maurizio, sul blu lì? Ma quello è un'altra cosa, non c'entra niente. Sono le 21.07, siamo in diretta, sì. Chi ascolta la radio sa ben perché Agostino ha citato questa colorazione. Lo so anch'io. Purtroppo. Proseguiamo per la musica, che è la, sì, cosa più importante. No, parliamo, esatto, di questa rassegna innanzitutto. Allora, Sognando Broadway, terza edizione. Si comincia sabato con Mamma Mia. Sì, sì, cominciamo noi. Con tutto esaurito, sì. E, diciamo che avremmo potuto anche fare un'altra data. E, noi siamo partiti molto, come al solito, partiamo molto umilmente e poi, come l'anno scorso è successo, lo sapete bene, dovevamo fare due date, alla fine abbiamo dovuto fare tre repliche. E questa volta, anche per motivi organizzativi, non abbiamo potuto fare la seconda replica. Comunque c'è tutto esaurito e partiamo come gruppo organizzatore, lanciamo diciamo la rassegna, che poi proseguirà per altre sei date, ogni 15 giorni, ogni sabato. Per altre 5 date. Noi abbiamo detto simbolicamente, lanciate, dai il via simbolicamente alla rassegna sulla nostra presentazione. Sì, esatto. L'anno scorso l'hai chiusa, quest'anno la apri. Sì, esatto, l'anno scorso l'abbiamo chiusa, quest'anno la apriamo e la chiuderà la compagnia che ha vinto l'anno scorso anno. Che ricordiamo è La Rupe dei Re, compagnia ABC di Verona. Che salutiamo, magari, esatto, stanno ascoltando, sì. Loro sono fedeli ascoltatori. È impegnativo aprire una rassegna, secondo te? Cioè, allora, diciamo che forse è stato più impegnativo l'anno scorso, perché dovevamo chiuderla e contemporaneamente era la prima del nostro spettacolo. E quest'anno, dopo un anno che lo portiamo in giro, è un po' più rilassante, diciamo. Poi aprirla e già sapere che c'è tutto esaurito, cioè ci dà una carica molto forte. È stato bello portarlo in giro quest'anno lo spettacolo, sì, Cesare. È stato bellissimo, soprattutto anche per il fatto che si è creata, secondo noi si è creata un'amalgama tra tutto il gruppo che non avevamo mai avuto in tutti questi anni. Infatti, prima, quando siamo arrivati, Agostino dicevamo: voi quanti siete? E io gli ho detto: noi quando ci muoviamo sempre in gruppo, non veniamo mai due o tre persone, perché siamo è lo spirito che effettivamente vale. Attaccati, esatto. Certo, però certo. Posso dire una cosa, non perché siete qui, ma siete una compagnia splendida dal punto di vista affettivo. È il solito Lecchino. Io mi ci sono affezionato a voi, non lo dico perché insomma, poi c'ho l'Antonella Scambia, quindi. Sì, lo dice solamente perché visto che è giurato, ha paura che l'anno prossimo non lo chiamiamo più come giurato. Quanti biglietti ti servono che ti troviamo? Ricordiamo innanzitutto che comunque Blu Radio Veneto è media partner di questa, esatto, rassegna, quindi esatto, ci troverete anche noi lì, insomma, sì, a fare da contorno, solo da contorno. sono d'accordo. Musicalmente c'è stata qualche variazione. Qua abbiamo l'organista principe, l'arrangiatore principe dei pezzi. Dall'anno scorso ci sono state delle variazioni, nel senso che oltre a esserci il tastierista principe, che è Sergio Busoni, che dopo magari gli facciamo dire qualcosa, visto che il nostro jukebox ha l'idrogeno, abbiamo aggiunto un altro tastierista. Oltre al chitarrista Adriano Pellegrini, che è anche quello che ha curato i cori. E all'inizio era partita perché c'è stata una data che Sergio non era potuto venire, l'abbiamo sostituito con Dario Trevisan, che è qui presente questa sera nelle vesti però di chitarrista. Esattamente. E poi lui si è attaccato tanto alla compagnia, anzi gli è piaciuto subito. Sergio è ritornato e abbiamo detto: cavoli, abbiamo due tastiere, perché non le sfruttiamo? Giusto. E infatti alcune parti dello spettacolo, alcune canzoni sono state molto ampliate con il fatto della musica dal vivo, che prima non potevamo farle avendo solo una tastiera. Ora con due tastiere riusciamo a fare delle cose molto più belle. Bello, hai detto una cosa giusta: musica dal vivo è essenziale, sì, è assolutamente, esatto, importantissimo. Con due tastiere la musica dal vivo per un musical, per determinate scene di uno spettacolo che magari hanno delle parti cantate ma anche recitate, certo, se non c'è la musica dal vivo non riesci a farle, perché la musica su base è cadenzata in un certo modo. Quella dal vivo, con i maestri che abbiamo qui presenti, tra l'altro, che ci vengono dietro come vogliamo noi, riusciamo anche a interpretare meglio quello che stiamo facendo. Benissimo. Io voglio ancora dire una cosa in merito alla compagnia Mouge, in merito anche a Mamma Mia. C'è da sottolineare il fatto che le canzoni sono tutte in italiano. Sì, le abbiamo scritte noi. Scritte da voi, quindi vi rende ancora più onore e merito, insomma, questo mio... Sì, abbiamo avuto molti complimenti. All'inizio, quando diciamo abbiamo tradotto tutte le canzoni degli ABBA, la gente un po'... sbarra gli occhi, perché come, ma perché non si possono fare certe cose, però certi accostamenti, esatto. Però alla fine, secondo me, nel musical, in un musical, prendono tutta un'altra fisionomia le canzoni e tradotte. Noi ovviamente ci siamo presi anche delle licenze, non è che abbiamo tradotto le canzoni letteralmente, le abbiamo tradotte in modo che possano essere integrate perfettamente in quello che è la storia, certo. E addirittura abbiamo avuto delle persone che ci dicevano: ma questa canzone è degli ABBA, non è degli ABBA, perché magari cantata in italiano sembrava un'altra canzone. Esattamente. Apriamo subito le danze, come si suol dire. Magari volevo un attimo, se presentiamo un attimo tutte le persone. Io che le volevo che... presentare dopo. Ah, vabbè, allora partiamo con qualcosa di cantato. Che poi le presentiamo, perché abbiamo parlato già tanto, quindi facciamo sentire qualcosa di musica. Infatti. Anche perché siete tantissimi da presentare, quindi magari ognuno dirà la sua. Cosa ci fate ascoltare innanzitutto? Partiamo ovviamente con la canzone che dà anche il titolo allo spettacolo, e perciò partiamo con Mamma Mia. Ricordiamo che la scaletta delle canzoni che sentirete stasera in diretta da loro non corrisponde alla scaletta del musical. No. Quindi no. Sono prese così. Esatto. Random. Random. Prego. Se è finita tra noi, c'è di certo un perché. E sono stata, e lo sai, ingannata da te. Ma sai che c'è, non imparo mai insieme a te. Che mi capita, non lo so. Prendo fuoco in un attimo. Guardi e sento le campane suonare. Parli e mi sento sempre morire. Oh, oh, oh. Mamma mia, ci risiamo ancora. Mamma, sento che ci casco. Mamma mia, non resisto più. Mamma, so che ci ricasco. Io t'ho lasciato andare, tu mi hai spezzato il cuore. Mai, mai, giuro, non ti so scordare. Mamma mia, ora io lo so. Mai, mai, non dovevo farti andare. Triste, lo sai, arrabbiata ancor più. Tu capire non puoi chi è ferito di più. Ma sai che c'è, non farò mai insieme a te. Che mi capita non lo so, prendo fuoco in un attimo. Guardi e sento le campane suonare, parli e mi sento sempre morire. Oh, oh, oh, mamma mia, ricomincerà. Mamma, io non ti resisto. Mamma mia, l'ho vissuto già. Mamma, come un film già visto. Il cuore si è spezzato da quando mi hai lasciato. Perché te ne sei andato via. Mamma mia, ora io lo so. Mai, mai, non dovevo farti andare. Perfetto, mamma mia, ricordiamo che la versione originale del musical era della drammaturga inglese Katherine Johnson, dobbiamo ricordarla, questo è fondamentale. Mamma mia, esatto. Il loro più grande successo degli ABBA. Gli ABBA hanno che venduto circa 340 milioni di dischi, pochi. Non poco, non pochi. Si dice che abbiano superato come quoziente economico la Volvo, quindi... E prima della regina di Svezia, quindi praticamente come impero economico. Ma tu sai tutto, no? Sono informato. Quindi una potenza incredibile musicalmente parlando. È un musical importante, che il musical ha fatto un grande successo in tutto il mondo, Italia compresa, perché una delle protagoniste era Daria Noschese. Esatto, in italiano, la figlia di Noschese, di Alighiero, di Alighiero. Allora, abbiamo come personaggi alla tastiera, avete sentito, c'è Sergio Buson, il maestro straordinario. Buonasera. Che è un grande esperto. Buonasera. Di rock, Sergio, è un grande esperto di rock. Ne abbiamo già parlato. Ne abbiamo già parlato l'anno scorso. Sergio, ma potremmo Sergio in realtà è un esperto di qualsiasi tutto, cosa che riguarda la musica. Ma una sera lo invitiamo qui, Sergio. Facciamo un giretto sul rock. Sul rock insieme a Sergio. E dintorni. Sergio. Okay. E poi alla chitarra c'è appunto Dario Trevisan, che di solito è alla tastiera. Ciao Dario. Ciao Dario. Ciao. E poi insomma abbiamo come dire, le femminucce. Le colonne portanti. Femminucce più due maschietti. Ecco, allora, cominciamo dalla nuova donna, nel senso vero di artista, cioè di personaggio, Erika Zanchetta. Ciao Erika. Buonasera. Ho visto Ciao. Che sei tu donna adesso. Hai visto? Ho cambiato completamente. L'anno sono invecchiata di 20 esatto. anni in un anno. L'anno scorso ti avevo visto in vestito da sposa. Non so se devo preoccuparmi. Allora, beh, insomma, quindi fai donna te quest'anno. Eh sì. Sei diventata più adulta? È un personaggio diverso. Che ho avuto la fortuna di interpretare quest'anno. Sì. Dalla sposa dell'anno scorso. Dalla sposa alla mamma che veste la figlia. Che ho qui accanto comunque. Che sarebbe Alessandra Di Nardo, giusto? Buonasera a tutti, sì. Tu sei una nuova new entry, insomma, una nuova entrata. Sì, nuova entrata. Facevo la ballerina prima, poi adesso farò Sophie. Sempre nel cast. Sì, certo. Però non mi ricordo di te, di averti visto. Forse perché vedevo era più... Era il trucco. Era il trucco. Allora, tu sei Sophie, allora. Che impressione ti fa fare questa parte? È emozionante più che altro. È la tua prima volta? Sarà il mio debutto sabato, quindi sono molto emozionata. È un po' di camomilla, ti passa tutto. Insomma, bastasse quella. Poi c'è la storica, mitica, indiscussa, non si può sostituire Rosy. E chi è la Rosy che non Laura Tonarelli? Ciao. Ciao, bella. Ciao. Come stai? Bene, grazie, molto. Tu bene. Ormai la sai a memoria, tu? Cioè... Beh, grazie a Dio sì, nel senso che se no sarebbe dura. No, nel senso che... Sì. Fai ancora quel gesto, sì? Il copione lo richiede, sai com'è. Sì. Anche per te, insomma, una nuova avventura che comunque... Ma è sempre nuova. Cioè, anche se è la stessa, poi è sempre nuova, no? Ogni volta è una sfida nuova, pubblico nuovo. E quindi è come andare in palco per la prima volta. È come andare in scena la prima volta, sì. Ma quanto ti piace, Rosy? Tanto. Mi piace tanto, mi diverto un sacco. E hai il tuo fianco Martina. Sì. Martina. Buonasera. Pinto. Tu fai Ali quest'anno. Sì. Beh, anche l'anno scorso. Corso. Sì, insieme con Irene. Questa... A te invece come va? Bene. Questo bene, personaggio bene. Ti piace? Sì. Ah, collego. Chiaramente sì. Cese parla di coreografia. Ma arriviamo una alla volta. Con calma. C'è tutto. Sky invece è Giulio Di Vittorio. Buonasera a tutti. Buonasera a te. Ciao, Giulio. E tu, Giulio, invece? Anche per te è un personaggio importante. Beh, insomma, qualcuno dice è il protagonista maschile, in realtà è più che altro lo sposo della protagonista. In realtà Sky ha relativamente un ruolo minore, però è comunque un personaggio molto interessante, molto divertente da fare. Però le pinne, la tuta te la metti anche tu da sommozzatore. Eh sì, la pinna richiesta anche questa dal copione. Notevolmente calda, tra l'altro, la tenere addosso, però ci si passa sopra decisamente. Poi abbiamo un caro amico da tanti anni a questa parte, ci conosciamo dall'infanzia, lo dico sempre perché è giusto sottolinearlo, gli voglio un bene dell'anima. Ciao Alessandro. Ciao Agostino. Lui è Sam, Alessandro Papalardo, che quest'anno si ripete con Sam, o no? Sì, sì. Sì, sì, anche mi ripeto. Tu? Anche tu? Ti ripeti. È un grosso batterista, bisogna dire, è un percussionista, fa un po' di tutto. Sì. Grosso, grosso, grosso, fisicamente grosso, sì. Tu fai veramente un sacco di parti in varie produzioni, o sbaglio? Sei in altre situazioni anche, sì, non solamente... Sì, beh, io collaboro con Sergio, faccio piano bar, faccio matrimoni, poi... Poi cosa vuoi sapere? Basta. So, eri un insegnante l'anno scorso. Ah no, sì sì, è vero. E poi abbiamo Bill. È vero, l'anno scorso con Life in Plastic, ragione. Vedi, fatto anche lì, insomma. Ne fa talmente tante che cosa vuoi che si ricordi tutto, poverino. Sì, poi sto invecchiando. E poi abbiamo Bill, che altro non è Cesare, che tu invece... Sì. Tu sei sempre il solito che scappa da Rosy continuamente. Eh sì, esatto, esatto. Sì, non perché mi stia antipatica la Laura. Che... sì, un pochino, ogni tanto rompo le scatole. Va bene, Cesare, per te comunque è un continuo ripetere lo stesso personaggio. Beh, sì, in questo spettacolo sì, anche perché cioè, non so se riuscirei a farne due contemporaneamente. E vista anche l'età, non è che possa che abbia un range così vasto di personaggi che posso fare, mamma mia. Sky sicuramente non lo posso fare. Certo. Senti, allora a questo punto io direi, come dicevi poc'anzi tu, di sottolineare il regista, le coreografie, cioè Giovanna, insomma, da ricordare. Volevi dire qualcosa? Sì, Sergio? Chiedo scusa Agostino. Prendo la palla al balzo su Cesare, se Cesare me lo permette, a parte che gli ho chiesto segretamente il permesso prima, quindi ecco. Allora, Cesare come attore avrà il suo personaggio, però Cesare è anche il nostro regista e diciamo il bello del tutto è che ha nuove idee che ci sottopone, e quindi in fase di prova c'è, diciamo, da aggiustare il tiro, ma alla fine viene sempre tutto quanto sistemato. Allora, a me viene in mente, se tu permetti, una citazione di una trasmissione tanto vecchia che si chiamava Formula 3 con Alighiero Noschese, sì, e Loretta Goggi. Dedicato, abbiamo citato la figlia, quindi Alighiero Noschese ecco, e Loretta appunto. Goggi. E dove c'era Alighiero Noschese che imitava Federico Fellini, sì, un genio. C'è un'imitazione dove Fellini ha un cappello a cilindro in testa e la Goggi gli fa da intervistatrice. Sì. A un certo punto il cappello a cilindro gli scoppia e dice, ma la Goggi dice, maestro, scusi, ma cosa succede? E lui fa, ecco, lo sapevo, troppe idee. Sì, benissimo, bellissimo. Il problema è che Cesare non ha il cilindro, che non vorrei che scoppiasse la testa. Oddio, in una scena tra l'altro ce l'abbiamo anche, sì, Ale. Sì, è vero, ma adesso non ce l'hai. Allora, Cesare, chi sono i personaggi dietro le quinte, tra virgolette, insomma? Sì, allora, beh, ricordiamo che ce l'abbiamo anche qui che si sta facendo le foto, Giovanna, che è sempre in regia in tutti gli spettacoli che facciamo, a tenere a bada i microfoni e le varie basi che ci sono nello spettacolo. Abbiamo qui poi anche Antonella, che è lì vicino a te, che oltre a far parte anche dello spettacolo è anche la nostra PR ufficiale, nonché addetta stampa. Antonella Scambia, esatto. E Matteo, c'è Matteo Borgato che... Ma che... non gli facciamo dare un salutino a Giovanna e a Antonella, se vogliono? Non lo so se vogliono, sì. Venite. Vieni. La Giovanna non vuole. Dai, un saluto. Dai. Facciamo un salutino in coro. Buonasera a tutti. Buonasera. Vieni più vicino. No, non vuole. Sono timide. Sono timide, sì. Beh, a parte che l'Antonella è una gran brava ballerina, oltretutto, insomma. Vabbè, tu, come al solito, le tue preferenze, capito? Ma perché non gli fai fare una particina un po' più, no? non vuole. Allora, dipende dallo spettacolo. Nel prossimo musical che partiremo in gennaio. È uno spifero questo, è uno spifero. Che spifero, dove ci porta lo spifero? No, non vi porto da nessuna parte per ora. Nessuno può strapparci dalla bocca mia, della Martina, quale sarà il prossimo spettacolo. Ti torturerò poi. Poi dicevi, Cesare, ti ho interrotto, scusami. E Matteo Borgato, che invece sempre in regia si occupa delle luci. Uh-huh. E Carlo Gallinaro, che è il nostro buista ufficiale, cioè l'occhio di bue. Anzi, Marco Oppi di Vittorio, che lui è dietro, fa l'uomo di fatica dietro le quinte, alza e abbassa i fondali, tutte la Giorgia Bedin, che è la nostra truccatrice ufficiale ormai da un anno, e Tommaso Panizzolo, il nostro coiffeur personale. Qua mi suggeriscono, perché poi siamo in tanti, sì. Quanti anche... siete più o meno? Siamo in 35/40, dipende dalle occasioni, insomma. Ho capito. I costumi saranno colorati, perché mamma mia, quindi gli amavano moltissimo i costumi colorati, sì. Pieni di colori, proprio danno la sensazione. Sicuramente anche quest'anno sarà così. I costumi sono colorati, basta anche andare nella nostra pagina Facebook o nel sito, si vedono le foto. Ci sono, perfetto. Sono beh, molto, la scena molto finale colorati. È stupenda con i costumi là. Quindi una tradizione bellissima. Che si rinnova, che continua, sì. Praticamente. Certo. E quest'anno vengo a rubarmi una fotografia con voi, perché è troppo belli. Ma l'anno scorso non c'eri, non hai rubato. Sì, ma una è scappata. Ah, l'altra... ho capito, per quello. Va bene. A me hanno detto come mai ero vestito da Power Ranger. a me hanno parlato di Megaloman, invece, non so perché. Va bene, qui vedo che mi avete scritto che fate Ho un sogno. Ce la facciamo, sì, sentire, poi sì, torniamo, esatto, ancora a chiacchierare e a fare magari col giochetto. Sono 9:30, quindi possiamo anche farlo. Allora, adesso c'è Un sogno, che sarebbe I Have a Dream, esatto, originalmente. Ho un sogno e un canto che mi aiuterà anche con te. Se credi nei tuoi sogni, un futuro avrai. Guarda il tuo domani e non ti pentirai. Negli angeli credo, sono qui al mio fianco ed io so che negli angeli io credo, e c'è del bene sempre intorno a me, e penso che ho un sogno in me. I Have a Dream, praticamente ho un sogno, un pezzo molto romantico degli ABBA, decisamente. Cosa dici, Sergio, tu che l'hai arrangiato? Che questo fa parte di un periodo in cui gli ABBA avevano abbandonato il loro... Sergio sa tutto degli ABBA, assolutamente. Quindi... sa tutto di tutto. Passo la parola a Dario. dimmi Sergio. È un periodo in cui loro avevano abbandonato, diciamo, il loro classico stile, sia come modo di fare, sia come ABBA Sound. C'era un tecnico, Michael, il loro grande amico e il loro grande estimatore, che aveva creato quel sound molto aperto che loro avevano. E loro praticamente per due album ancora, questo è quello dell'82, Super Trooper l'ultimo, che faranno dei testi anche un po' soggetti a critiche, perché non erano i soliti testi degli ABBA e nemmeno le solite musiche, e anche come sonorità, diciamo, l'avevano abbandonata. E questa canzone fa parte di questo piano, questo progetto, questo nuovo progetto, sì. E questa canzone, appunto, in stile greco, appunto, si presta... Sì, un po' una danza, specie di danza. Sì, sì, esatto. Tra l'altro, poi, voglio soltanto dire che, comunque, gli ABBA hanno lasciato una traccia anche a livello tecnico, perché loro andavano a registrare dalle parti di Stoccolma, dove c'era appunto questo studio con queste apparecchiature che gli hanno creato quel sound proprio aperto. Sì. I Genesis, nel 80, che andarono a registrare l'album Duke, sì, che era l'ultimo album che facevano per l'etichetta indipendente, la Charisma. Bravissimo. Che poi è stata assorbita dalla Virgin. Sì. Sono andati proprio lì perché volevano lo stesso suono aperto, arioso, che avevano creato gli ABBA in passato. Certo, certo. È una cosa che è giusto sentire. Cosa avevamo detto? Vicky Sergi. È giusto. Beh, al di là di un pezzo ci sono sempre i risvolti, e Sergio li ha spiegati chiaramente. Secondo me è una cosa bellissima. Oltre ai 10 milioni di spettatori che ha avuto lo spettacolo nel 2004. Cresciamo un sacco noi con Sergio, perché impariamo, certo, delle, certo, cose. Anche noi volta cresciamo, anche io personalmente sono cresciuto quando ho sentito questi pezzi. Ma chi ha citato i Genesis? Dimmi, Sergio. Guarda, dico un'ultima cosa. Tante volte ci fanno i complimenti. Quando li fanno a me personalmente, io dico sempre, ragazzi, siamo una squadra. Siamo squadra anche in questo. Cioè anche nel crescere, anche a livello di informazione, anche a livello di sapere quello, certo, che facciamo. Ci aiutiamo anche in questo. Perfetto. Io devo leggere, credo siano due o tre messaggi. Allora, il primo dice: forza Muge, forza Alessandra, grande Cesare. Secondo me questo è il papà dell'Alessandra. Potrebbe essere. Allora, sono qui che vi ascolto, siete bravissimi. Sabato super spettacolo, ovvio. Un saluto dalla vostra truccatrice tuttofare. Giorgia, ciao Giorgia. E poi basta, poi sono questi qua. A proposito di SMS, vuoi che facciamo già il giochetto, Cesare? Cosa dici? Sì, perché no? Allora, intanto io, prima che fai la domanda... La faccio fare alle ragazze. Comunque. Sì, assolutamente alle ragazze. Allora, ricordiamo innanzitutto i nostri numeri telefonici. Quello in studio è lo 049-875-6423, mentre l'SMS, quindi aspettiamo i vostri SMS, è 346-23-20-033. Lo ripeto, 346-23-20-033 vi serve in questo momento da... fra pochissimo, insomma, appena vi leggeremo la domanda, per rispondere esattamente, ovviamente, per vincere due biglietti che ricordo ancora, o avete questa sola possibilità di venire a vedere Mamma Mia sabato prossimo, perché i posti sono esauriti, quindi c'è, cioè, sono solamente due biglietti a disposizione, sono quelli che vincerete questa sera, chi risponderà esattamente alla domanda. Prego. Noi cambiamo un po' le regole, la serata del cambiamento regole, non facciamo la domanda numero uno, non facciamo la domanda numero due, nemmeno Rosy, la numero tre. Facciamo la numero 4. Tu sei Rosy. Certo. Allora, qual è il soprannome di Harry, uno dei padri di Sophie? Pensateci, non diamo... Stanno già suonando? Vabbè. Poi vi fa la domanda? Qual è il soprannome di Harry, uno dei tre padri di Sophie? È talmente facile che non possiamo dare alternative, quindi la saprete sicuramente. Adesso sta rispondendo al telefono. Stanno già rispondendo. Chiedo scusa, ma ho delegato la segretaria. No? Antonella, insomma. Allora, ha risposto esattamente? Non ancora. Non ancora. Ci sta riflettendo. Allora, di cosa stavamo parlando? Cesare, rifai la domanda magari, che così se la vogliono rivedere, vi ricordo con i numeri 346 23 20 033 l'SMS, il numero di telefono invece è lo 049 875 6423. Cesare, dove eravamo rimasti? Dove eravamo rimasti, Cesare? C'è il microfono. Cioè, adesso arriva il microfono. Siamo talmente tanti qui che dobbiamo passarci il microfono. E, siamo rimasti a Sergio che ci raccontava. Cioè, che raccontava Have a Dream. Raccontava un po', esatto, Have a Dream e comunque la musica degli ultimi anni degli ABBA. Esattamente. E adesso non lo so di cosa potremmo. Allora, non parlare. Era giusta la risposta che ci hanno dato. Devi riproporre la domanda. Adesso arriva. È tutto in diretta anche lo spostamento, chiaramente. Qual è il soprannome di Harry, uno dei tre padri di Sophie? Bene. Non dico. Non dai nessun aiuto, niente. No, ragazzi, questi sono gli ultimi biglietti, ragazzi, dovete sudare per guadagnarveli. Ve lo ricordo ancora, il numero telefonico 049-875-6423 oppure sms 346-2320-033, avete tempo fino alle 22.30, dopodiché i biglietti andranno in beneficenza, che ne so. Sì. Sono preziosi. Sì. Magari andiamo fuori, mettiamo Ale fuori, tanto sì. Lui con tutte le fan che ha troverà sicuramente due ragazze che vogliono venire a vederlo. Senti, Cesare, ci diamo una spulciata a quale sono le altre a parte la Lupe, direi che magari ne parliamo dopo, ma insomma quelli che sono in concorso. Sì, invece, parliamo di quelli. Sì, che sono. Allora quest'anno tra l'altro abbiamo ampliato, fino all'anno scorso erano tre le compagnie in concorso, quest'anno sono quattro compagnie, quattro spettacoli, quindi più fatica per noi giurati. Più fatica, ma anche più divertimento, sì, forse certo. L'ho fatto apposta per, grazie, farvi divertire di più. E, partiamo con il concorso il 12 di ottobre con la prima compagnia che fa Night Lives. Esatto, Night Lives è la compagnia Accademia di Treviso. E questo è uno dei due musical che sono praticamente totalmente inediti, nel senso che sono stati proprio scritti da loro. E poi proseguiamo il 26 di ottobre con Al di là del vetro, un altro musical inedito della compagnia Tipo Come qui di Padova. È la prima volta che in concorso c'è una compagnia di Padova. Bene. Poi proseguiamo il 9 di novembre con Will Be Rock You. Quindi si parla di rock e Queen. Esatto. E con CVD Lab, che è una costola, diciamo così, della compagnia del villaggio di Vicenza. Che sono stati anche l'anno scorso. Sì, l'anno scorso hanno partecipato fuori concorso perché avevano vinto il primo anno. E poi l'ultimo spettacolo in concorso è il 23 di novembre, La Sirenetta, con la compagnia Santa Caterina di Varese. Posso chiederti una cosa, sì, Cesare? Come mai giustamente una scelta con due spettacoli assolutamente, sì, inediti? Mi piace questa domanda. perché è interessante. No, è stato diciamo che è stato un parto un po' difficile, perché uno potrebbe dire è un rischio, può essere, esatto, un rischio. Esatto, scegliamo spettacoli conosciuti, è più facile che il pubblico venga. Certo. In realtà Questo Sognando Broadway è nato anche per far conoscere, oltre il musical in generale, anche i vari tipi di musical che ci sono. E la maggior parte dei musical sono quasi sempre i musical di Walt Disney, che li conoscono tutti, o musical di Broadway famosissimi. Io volevo cercare di far capire alle persone che in realtà ci possono essere altri tipi di musical che magari possono piacere lo stesso. Sia Night Lives che anche Al di là del vetro sono due musical che tra di loro sono completamente diversi, perché Night Lives è molto improntato su quello che è la danza, cioè la fisicità dello spettacolo, con scenografie molto essenziali, però c'è molto fisico per quello che riguarda il ballo. Ci sono dei ballerini secondo me molto bravi. Ti leggo la storia, se vuoi. C'è una presentazione, certo, che mi ha dato, certo, Antonella. Allora, una coppia di nonni seduti su una panchina racconta alla nipotina la loro storia d'amore attraverso brani che hanno segnato la storia della musica degli anni 60 agli anni 80. La regia è di Gabriele Bergamo, le coreografie sono di Consuelo Pavanetto e Miriana Pavanetto. Questo per quanto riguarda Night Live. Certo. Che tu hai visto comunque tutti quanti questi spettacoli? Sì, per forza. E lo stesso Al di là del vetro. Al di là del vetro è praticamente non è altro che la storia di un gruppo di ragazzi universitari che vivono insieme nello stesso appartamento. Le storie, cioè l'amicizia che si può creare da persone diverse, da ragazzi diversi che sì, che per forza di cose devono convivere in una stessa casa. E, anche qui sono le canzoni che hanno preso, sono tutti brani molto, molto famosi e riadattati per farli entrare dentro questo, questo spettacolo. Questi avranno le basi, questi due sì. Sì. Non ci sarà un orchestra, non ci sarà no. No, almeno no. Ok, ho capito. Quindi quando si parte per un Erasmus non si sa mai a cosa si vada incontro, dice la nota. Quindi esatto. Derek e Raja arrivati a Firenze trovano un gruppo di studenti coinquilini che non dimenticheranno mai più. La regia di Emanuela Guerra e Chiara Ravazzolo, le coreografie sono di Claudia Polato. Benissimo. E poi c'è Will We Rock You. Beh, Will We Rock You lo raccontiamo. Will We Rock You, beh, la storia, beh, vabbè, la storia è ambientata nel futuro, in un futuro che adesso non ricordo neanche che anno è, comunque in un futuro molto molto avanti negli anni, dove si è persa completamente quello che è la musica, cioè non è c'è solo un tipo di musica che non è altro che la musica attuale da discoteca, sì, che rumore esatto. Più che altro. E un gruppo di ragazzi che cerca di ricostruire cos'era la musica degli anni 70, certo, degli anni 80, e tutto ovviamente sulle musiche dei Queen. Dei Queen, chiaramente. Certo. E poi c'è la Sirenetta. La Sirenetta, che penso non abbia bisogno di... Beh, no, volevo tutti. Aggiungo solo due parole per We Will Rock You, la regia di Luca Lovato, le coreografie sono di Paola Zamunaro. Ecco. La Sirenetta, dicevamo, invece la Sirenetta. La Sirenetta, penso la storia sia super conosciuta, Non saprei cosa aggiungere. Non hanno bisogno di spiegazioni, penso, la Sirenetta, la conoscono tutti. E poi ci sarà la chiusura con La Rupe dei Re. La Rupe dei Re. E Re Leone. Re Leone, esatto. Anche altra storia conosciutissima. Sì, è quella che ha vinto l'anno scorso. Esatto. Che poi, insomma, anche altri hanno vinto altri premi, ma insomma il musical che ha vinto proprio... Sì. Il vero premio, insomma, è stato appunto La Rupe dei Re. Esatto. Lo Spifero mi diceva che fai Gesù Cristo Superstar l'anno prossimo, no? Io no, so che tu vorresti, lo so che tu vorresti. Niente, non me lo fa, non me lo vuole fare. SOS, va bene, fatemi SOS, via. Perché non vuoi ascoltare quel grido che c'è in me? Perché non vedi che io sono qui per te? Perché è finita tra di noi? Ancora non lo so. Che fine ha fatto ormai l'amore che era in noi? Ma se ti stringo forte almeno senti SOS. Senza di te io grido solamente SOS. Senza te sono solo e mi chiedo perché. Senza te, ma che senso ha la vita per me? Senza te, lo sai, non ero più in me. Cos'è successo io non so, non ricordo più. Che fine ha fatto ormai l'amore che era in noi? Parlato di Sophie. Non sono fatti tuoi. E questo tizio Sky, com'è per lei? È abbastanza buono? Anche questo non è affar tuo. sentire SOS. Solo l'amore può salvarmi, lancio un SOS. Senza te, senza te, sono sola e mi chiedo perché. Senza te, senza te, ma che senso ha la vita per me? E, tra l'altro, mentre cantavano, ho realizzato in questo momento che dopo si è riformata la coppia che avevamo sul Moulin Rouge. Praticamente Christian e Satin del Moulin Rouge si sono riformati. SOS è sicuramente uno dei più grandi successi degli ABBA. È proprio la fotografia del sound degli ABBA, melodico e ritmico nello stesso tempo. Cosa dici, Sergio, visto che Sergio è il nostro esperto sugli ABBA musicalmente, dal punto di vista musicale? Parlo di SOS dal punto di vista musicale. Sì, SOS è proprio la fotografia esatta della band, il classico sound loro praticamente. Sì, aggiungo di più. Dimmi. Anche a livello ritmico praticamente, sì. Era una moda negli anni 70 fare così. C'erano molti, molti gruppi che facevano così. Ho già avuto modo di citare i Supertramp, che sono straordinari. Sì, sì, erano straordinari. Ma era una cosa molto evidente, specialmente il piano, l'uso del piano. Sì, esatto. C'era Roger Olson, che per sé era chitarrista, ma a volte suonava il piano. Nelle sue composizioni, tipo The Logical Song, Breakfast in America, lui aveva sempre questo ritmo che era il martellato. Esatto. Ed era una cosa che gli ABBA, bene o male, insomma, non erano i più evidenti, però erano anche loro, seguivano quella moda del ritmo ripetuto, che era sempre un po' piano percussivo, se mi è consentita l'espressione. Proprio così. Qualche volta anche la chitarra, ma soprattutto il piano era molto una cosa molto evidente negli ABBA. Rispecchiavano molto la moda degli. È assolutamente evidente anche per la quantità enorme di 45 giri venduti con SOS. Ok. Ancora due messaggi. Complimenti a tutta la compagnia. Se questa è la premessa, sarà uno spettacolo fantastico. In bocca al lupo dalle due zie di Sofì. Sì, perché zie. Praticamente ho scoperto che l'Alessandra è di Monselice. Da Monselice praticamente partono dei treni speciali per venire dal Vignasego sabato. Ancora un altro messaggio. Ciao zia Marti, siete tutti bravissimi. Sabato sarò in prima fila come in ogni spettacolo. La vostra piccola fans, Sofia. Ciao. Ha seguito tutti gli spettacoli, e la so. Le prove aggiungerei. Esatto. Allora, se Rosy non si mangia il dito, se mi vuole ripetere il quiz, per cortesia, Rosy. Rosy. Sì, arrivo. Ecco. Qual è il soprannome di Harry, uno dei tre padri di Sophie? Ma un aiutino non glielo diamo, perché qui vedo che non riescono a. Harry ci assomiglia all'inizio. Ecco. L'inizio assomiglia. Basta. Ma l'ho detto praticamente. Ecco. Basta. Il numero telefonico in studio 049 875 6423. Sta suonando il telefono, segretaria, grazie. Allora, 049 875 6423, sms 346 23 20 033. Stiamo in vena goliardica stasera, ma loro sono una compagnia che conosciamo molto bene, sia io che Maurizio, quindi... Ma non è goliardica loro, nel senso buono della parola, buono. Tranne Ale. E lui è goliardico, sì, assolutamente. Allora, questo è Blu Radio Vento, quella voce di Agostino e di Maurizio, ma soprattutto con la compagnia Muge, che ricordo aprirà la rassegna musicale del musical, più che musicale, il festival del musical, appunto, Sognando Broadway, che inizierà sabato prossimo, quindi fra due giorni. Esatto. Hai indovinato? Ha sbagliato. Peccato. Una curiosità: nel 2005, quando sono stati a Las Vegas, mamma mia, musical è stato a Las Vegas, ha fatto 1000 repliche, è stato il maggior successo dal punto di vista del music a Las Vegas, una città un po' particolare. Noi siamo 980. Ecco, vedi, perfetto. Benissimo, quindi non siete molto lontani. Bene, allora a questo punto Dancing Queen. un altro classico. Potremmo parlare poi con Sergio della struttura del pezzo, ma ne e parliamo poi abbiamo dopo. Le altre tre, insomma. Mm-hmm. Poi ce n'è una che mi piace tantissimo. Il vincitore prende tutto, che mi piace tanto. Ah. Dancing Queen. Ci siamo, eh. Eccola. Balla vai finché puoi, hai tutto il tempo che vuoi, guardati, credici, tu sei la Dancing Queen. Il weekend è arrivato già, pensa un po' dove si va. Radio Veneto. SMS 346 23 20 033. Blue Time. Blue Time Live. Blue Time. Live. Ciao ragazzi, vi ascolto da Salò, siete incredibili, sarà proprio uno puntini puntini spettacolo spettacolare, bravi con tanti finali, un bacione da Paola. Grazie. Grazie. Io direi, cara, ormai tu non sei Laura, sei Rosy. Rosy, ripetila. Ma ti ci vedo proprio, sei tu, sei proprio Rosy. E io tu. Va bene. Chiamatemi pure Rosy. Parla vicino al microfono. Sì, ecco, arrivo. Ho capito che sei emozionata perché insomma sei Rosy, però vabbè. So. Ma ormai è tutto uno con me. E immagino. Vai Laura. Io la ripeto anche. Mm. Facciamo l'ultimo tentativo. Facciamo l'ultimo e tentativo. Poi in caso proviamo. Quindi anche per Paola che ci ha mandato questo messaggio da Salò, magari vince i biglietti. Paola, vieni, non è tanta strada, no, alla fin fine. Da Salò. Che... sì, tu, dietro l'angolo. Sì. Vabbè. Qual è il soprannome di Harry, uno dei tre padri di Sophie? Diciamo qualcosa col metallo. Col metallo. C'ha a che fare col metallo. Ma se mi parli più vicino forse lo sentono. Metallo. Grazie. Prego. Va bene. Ha a che fare con il metallo e comincia come il nome di Harry. Basta, ve l'ho detto. Buonanotte, buona continuazione. Bene, abbiamo sentito. Può essere un genere musicale. E può essere un genere qua. Qua hai dato la, qua hai dato la risposta. Dato allora regaliamo. E va bene, dai, regaliamole. Sì. No, abbiamo sentito prima Dancing Queen, che è forse il successo più importante e che ha praticamente coinvolto tutti, anche gli U2, perché c'è il famoso concerto del febbraio del 93 in cui è salito sul palco uno degli ABBA assieme a Bono e hanno fatto il duetto con Dancing Queen. Cosa ne pensi, Sergio, di Dancing Queen? Io lo sapevo. La struttura musicale di Dancing Queen, la scala musicale di Dancing Queen. Ti dirò innanzitutto un aneddoto. Dimmi. La prima volta che l'ho sentita, Dancing Queen, l'ho sentita in onde medie. Ti ricordi le onde medie? Sì, certo, me le ricordo. Queste sono le onde medie. Proprio quelle. E l'ho sentita di sera, anzi di notte, perché le onde medie di notte si liberavano dalle frequenze e quindi ti arrivavano anche le radio estere, tipo certo. Radio che trasmettevano in italiano, tipo Radio Praga, vero. Radio Varsavia, così. E sentivo sta canzone, insomma, che non mi è mai piaciuta all'epoca. Mai avrei immaginato che... piacesse a così tante rockstar. Esatto, come 40 Bono, anni dopo, sì. Esattamente. È praticamente la tipica, diciamo, tipica struttura dance che andava di moda, diciamo, negli anni 75, 74, 75. Ti ricordi? Sì. Gloria Gaynor. Certo. La disco music, in poche parole, che andava di moda in quegli anni là, che dopo circa dopo 3 anni sarebbe quasi decaduta, se non fosse stata per la febbre del sabato sera che gli ha dato un'ultima zampata, l'ultimo slancio, diciamo, che è stato. Per me riflette tipicamente proprio la disco dance, se così si può chiamare, degli anni della metà degli anni 70, sia come testo, a parte che i testi li scrivevano tutti quanti i due ragazzi, sì, degli ABBA, e sia come, diciamo, come struttura musicale, come ritmica, come chi si intende anche di, appunto, di musica, come accordi, come accompagnamenti, proprio nulla di più di Dancing Queen, secondo me, riflette l'epoca, sì, diciamo. Era un pezzo da gruppo, da gruppo, cantare assieme. Esatto, chiaramente. Sì, infatti. Te l'ho messo in sottofondo. Ah, grazie. Questo potrebbe essere il musical, Cesare? Sì, infatti. Penso proprio che faremo questo. Vedi, anche già... perché io e Ale abbiamo anche le voci adatte, sì. Io soprattutto. Noi avremo Tony Maniero, però. Sì. però non sarebbe male. Vedi, sono già due che ti chiedo. Quindi di accontentarmi. Allora, cosa stavo dicendo prima, parlando ancora di questa rassegna? Nel complesso è stato così poi tanto difficile organizzarla, cioè, o c'hai quell'entusiasmo che ti ha portato dai fast dell'anno scorso a rivedere ancora questa, questa soluzione? Allora, diciamo che l'organizzazione è difficile quando non viene fatta con passione. È lo stesso discorso di quelli che ci dicono è difficile fare un musical. Sì, può essere difficile, però non è che la gente ci obbliga a farlo. Se lo facciamo è perché vuol dire che ci piace. Può essere difficile organizzarla, ma dal momento che lo faccio, o che lo facciamo, anzi, perché ci piace, pesa molto meno questa organizzazione, questa cosa che può essere l'organizzazione, soprattutto perché poi ci vediamo anche di bellissimi spettacoli, perciò ci divertiamo anche. Certo, e cosa volevo dire? Maurizio, tu hai qualcosa che volevi chiederti? Ho visto, c'era un entusiasmo per Dancing qui. Sergio parlava di un pezzo di gruppo, e questo è effettivamente il pezzo di gruppo, il pezzo per antonomasia di gruppo della band, degli ABBA, è il pezzo di gruppo per antonomasia dello spettacolo praticamente. Siete tutti coinvolti, abbastanza, meno qua, in questo momento siete stati tutti coinvolti, compreso anche il Tony Maniero, futuro Tony Maniero. Sì, e anche perché questo pezzo in realtà viene suonato e cantato due volte durante lo spettacolo. Quindi è un collegamento continuo con, esatto, lo spettacolo. Io voglio un applauso grande. Abbiamo trovato il vincitore! No. Chi è che te l'ha detto? Pensavo. E infatti è una vincitrice. Comunque qui stanno arrivando, adesso stanno arrivando tutti. Grazie, gli ho dato un aiuto proprio. Allora, qui continua ad arrivare a dare la risposta esatta, però era Evie. Evie Bright. Ed è la signora Elda. Molto bene. Quindi la salutiamo. Brava! Allora, ciao Elda, quindi poi ti arrangerai con loro. Cesare come se si arrangerà Antonella, insomma. Sì, sì. La segretaria fa tutto, insomma. L'hai pagata abbastanza. Allora, adesso cosa ci fate ascoltare? Sono le 22, abbiamo quella una trentina di minuti per presentare questo Mamma Mia. Mi scappi dalle dita. Uh-huh. Che questa è una canzone che secondo me è una canzone molto molto molto sentita anche quando viene cantata, specialmente in italiano. Secondo me in italiano rende ancora di più che non in inglese. Che la versione in inglese come si chiamava? Sleepy. Esatto, okay. C'è simile come titolo. Prima di partire vi voglio leggere un messaggio. Sabato sera voglio vedere se mi superi. Ciao Ale, mamma di Sofì. perché allora praticamente Alessandra arriva da una famiglia di musicisti, sia il papà che la mamma cantano e suonano, e perciò penso che saranno molto cattivi sabato, sì, nel giudicarla. Vi aspettiamo tutti sabato. Adesso comunque c'è Mi scappi dalle dita. Cartella in spalla, esci di casa al mattino presto, poi mi saluti, sorridendo mi fai ciao. Ti guardo andar via e con la solita tristezza devo sedermi per un po'. Lo sento che ti perdo per sempre e senza entrare nel tuo mondo mai. E sono felice ogni volta che ridiamo, piccolina, fallo ancora. Mi scappi dalle dita sempre più, voglio afferrare le sensazioni, mi scappi dalle dita sempre più. So davvero cosa pensi tu, se credo di saperlo ora, tu cresci ancora, mi scappi dalle dita sempre più. Gli occhi assonnati, io e te a fare colazione, poi sbadigliamo, intanto il tempo passa e va. E quando vai via sento una strana sensazione ed il rimpianto non mi lascia più. Che ne è stato delle belle avventure, viaggi che volevo far con te, alcune cose vero le abbiamo fatte, ma la maggior parte no. Mi scappi dalle dita sempre più, voglio afferrare le occasioni, le sensazioni, mi scappi dalle dita sempre. So davvero cosa pensi tu, se credo di saperlo ora, tu cresci ancora, mi scappi dalle dita sempre più. Vorrei bloccare tutto in questo istante, per tenerlo sempre così, mi scappi dalle dita. cartella in spalla, esci di casa al mattino presto, poi mi saluti, sorridendo mi fai ciao. Finito il dolcezza. Maurizio, assolutamente un pezzo romantico. La dedico alla mamma. Ecco, sì, ecco. Perfetto. La voce solista era di Erika Zanchetta. Certamente. Mm. Pezzo romantico, un pezzo che dà partecipazione, dà pathos, vero Erika? L'ha interpretato con molta forza, con molta partecipazione, anche a parte degli altri, anche se non ho cantato. Scusa Alessandra, che ha cantato solo lei, mi pare. E Alessandra Di Nardo. E Alessandra, sì. Sofì. Benissimo, quindi un pezzo sentito, partecipato, un pezzo romantico, tra virgolette. Che non piace neanche a me. Non piace a te, poco. E piaceva anche molto a Sergio, che l'ha interpretata in una maniera molto languida, Sergio. Cosa dici? Molto languida. Languida. In senso positivo del termine. Cioè, sì. Lei hai accarezzato le note del piano. Ah, ti ringrazio, ma allora Dario mi ha provocato. Ah, ti ha provocato, quindi... Dario. Per quello. Allora, Dario suona la tastiera, stasera suona la chitarra. Sì, sì, lui è un nostro factotum. Anzi, ne approfitto. Allora, Dario, appunto, è un po' factotum, suona sia questo che quello. Però ne approfitto, se me la consentite, di salutare anche Adriano, il nostro baluardo musicale. Mitico. Il nostro. Ciao, Adri. Ciao. Ecco. Adrio, sei tutti noi. Beh, posso dire soltanto una cosa, Agostino, che questo pezzo è stato scritto ormai alla decadenza non soltanto discografica, però noi sappiamo che gli ABBA fra di loro si erano anche sposati. Certo, sì. E i matrimoni sono finiti male. E questo ha ispirato anche i pezzi, diciamo, che anche noi facciamo nel musical, solo che nel musical hanno un contesto di speranza. In realtà, quando sono stati scritti perché ormai era finita, diciamo. E anche questa, anche se nel musical è dedicata a, diciamo, la madre parla della figlia, in realtà è un periodo in cui ormai, diciamo, si sente che tutto sta finendo. Infatti queste canzoni, guarda caso, venivano cantate da Agnita. Frida non collaborava quasi più. E oltretutto nei video che facevano c'era sempre Agnita, gli altri o non c'erano o proprio erano una presenza ininfluente. Ininfluente, esattamente. Sì. Bene, Cesare, io volevo chiederti, secondo te quanto di vostro c'è in questo spettacolo, mamma mia, di vostro nel senso per questo successo che state ottenendo? Perché avete veramente un sacco di gente che vi sta seguendo. Sì. Beh, spero tanto. Sicuramente c'è quello che abbiamo dietro nel logo, il cuore che abbiamo adottato da 2 anni, c'è la passione che ci mettiamo, e secondo me questo è molto percepito da parte del pubblico. Quasi due anni fa e abbiamo fatto una riunione dove abbiamo messo quasi in secondo piano il fatto della bravura, cioè non voglio, cioè sembra brutta questa cosa qua, perché uno dice vabbè, la bravura la lasciamo stare, non è così, però abbiamo voluto mettere in primo piano la passione, cioè di dar spazio soprattutto a quello che è la passione, e questo fatto secondo me ci ha fatto crescere molto, e questo fatto è percepito dalle persone, lo dimostra il fatto che con questo spettacolo quando facciamo i saluti finali troviamo il pubblico tutto in piedi a ballare. Noi questo vuol dire che loro lo sentono molto lo spettacolo, e questo per noi è una carica ancora maggiore, è uno spettacolo tra l'altro che è anche molto divertente, molto simpatico, e questo diciamo che facilita anche un po' le cose. Sì, anche i dialoghi sono abbastanza divertenti, sì, insomma, esatto, quindi... esatto. No, io confermo quello che dice Cesare, perché ho avuto la possibilità di vedervi. Questa è la quarta volta che vengo. Esatto, esatto. Sì, infatti la prossima farai tu uno dei papà, sì. Tanto ormai le battute le conosci. Allora, io voglio ricordare ancora una volta l'inizio della rassegna Sognando Broadway 2013, sabato prossimo 28 settembre 2013, appunto con Mamma Mia, cos'hai combinato Sofì, al palazzetto polivalente di Albignasio, che si trova in via Pirandello numero 2, e alle ore 21. Esatto. Biglietti non cercatene, perché non ce ne sono più. Addirittura mi dicevi che hai aggiunto anche posti grazie alla richiesta. Sì, esatto, grazie al comune che ci ha, ha fatto in modo di ampliare leggermente lo spazio. Quindi, e ogni 15 giorni ci sarà appunto un musical. Fra due settimane comincerà il concorso vero e proprio. Esatto. Con il musical Night Lives. Ricordiamo che ci sono 4 musical in concorso e 2 fuori. Esatto. Quelli e anche, che aprono e quelli che chiudono. Esatto. E ricordiamo che oltre alla giuria di qualità, di cui anche Agostino fa parte, ci sarà anche il pubblico di scarsa qualità, di cui Agostino fa parte. Ci sarà anche ma il ricordiamo pubblico. Ricordiamo chi sono i giurati. Sì, c'è Nando Bertaggia, Erika De Lorenzi. E poi, che sono due componenti dei Movie Trio, tanto per intenderci. Anna Sadocco e Lucia Perin per la parte della danza. Per la parte della danza, poi ci sono sottoscritto, c'è Bruno Di Ovelle come mediatore. Esatto, esatto. Bene. E, no, volevo dire che oltre a questa giuria ci sarà anche il pubblico che potrà votare il musical che sarà più gradito a loro. Quindi ci sarà il nostro voto, ma ci sarà anche il vostro voto, cioè quello di voi, insomma, spettatori. Esatto. E quindi influirà per il 50% per quello che riguarda il musical. L'anno scorso c'è stata quasi una parità, se non sbaglio. L'anno scorso, senza dire numeri, guarda, io so che in realtà i voti della per lo spettacolo che ha vinto, i voti della giuria e quelli del pubblico erano concordi. Questo mi solleva da un pensiero. Io ne approfitto per salutare Martina che ci sta ascoltando dalla provincia di Mantova e poi ancora Francesca dalla provincia di Padova e la figlia del regista del Re Leone, cioè Michela Porcu, che so che insomma... Ciao Michela! Che comunque tra l'altro l'avremo qui il 7 di dicembre. No, il 5. Il 7 c'è lo spettacolo e qui il 5 è qui, certo. A Blu, certo. Radio Veneto. Quindi l'appuntamento è fra 15 giorni, sempre qui giovedì dalle 21, con il musical Night Lives, cioè ovvero la compagnia Accademia. Esatto. Di Treviso, mi sembra. Sì, sì, Treviso. Volevi aggiungere qualcos'altro, Maurizio, tu? Sì, no, mi interessava, cioè una cosa importante, l'ha già ribadita prima Cesare, il discorso dei musical inediti. È un rischio perché... La trama, anche se le canzoni sono famose, la trama è diversa, quindi la gente non conosce, però è giusto andare a vedere questi spettacoli, è giusto ribadire, dare una mano alle compagnie che hanno intrapreso la via del musical inediti. Esatto, che è proprio l'idea di partenza di Sognando Broadway, cioè cercare di aiutare tutte le compagnie che magari hanno difficoltà di spazi. Certo. Che lo sappiamo benissimo anche noi, è difficilissimo andare in giro a fare gli spettacoli, e magari facendole conoscere. Giustamente noi da qua da sempre ospitiamo band emergenti e possiamo ospitare band, cioè compagnie emergenti di musica, di musical inediti. Questa è una cosa, esatto, positiva. Esatto. Assolutamente. L'anno prossimo 7 date? L'anno prossimo magari, vediamo. Finiamo alla Befana l'anno prossimo. Vediamo queste. Beh, insomma, visto, hai avuto molte richieste, sì, penso, sì. No? Sì, voglio dire, magari puoi fare l'annuale, che ne so. L'idea accesa di avere sempre uno spazio annuale per il musico è una cosa interessante, bella. Sì. E l'idea, quella, allora, penso che sia l'idea di partenza tua. Sì. L'idea sì, è quella, cioè, l'idea è quella di che ci sia un posto dove la gente possa venire e guardare determinati spettacoli. Visto le risposte dell'anno scorso. Sì. E infatti già dal primo anno al secondo anno c'è stato un incremento incredibile di pubblico. Quest'anno se le premesse sono queste, esatto. Speriamo che continui. Beh, insomma, che continui già è tutto così. Esaurito ancora 4-5 giorni prima dello spettacolo. Sì. Penso sia una grande soddisfazione, certo, da parte vostra. Certo, insomma. Sicuramente. Bene, e l'anno prossimo King Set, l'hai detto, vero? Vediamo. Con Jesus Christ Superstar. Esatto, sì. Me l'ha promesso. Sì. Io faccio Erode, va bene? Sì. Beh, fisicamente va bene. Potresti farlo assolutamente bene. Va bene, adesso l'estate sta finendo, meglio già finita. Non la fate la nostra estate, la fate dopo. Facciamo dopo. Ci manca il papà che doveva. Cosa che ci doveva... fate? Facciamo chi vince tutto A. E poi ne hai un'altra pronta? Sì, per dopo, la fine. Non preoccuparti, dopo rifacciamo qualcosa. Allora mi fai the winner. Abbiamo qui il jukebox all'idrogeno, Sergio. Possiamo fare qualsiasi cosa. Questo è un momento molto emozionante nel musical. Sì. Poi anche nel film, insomma, questa salita sulla montagna, questa eremo, insomma, dove si sposano. Prego. Parliamo più, tutto è stato detto, ho sofferto, sai, è già storia ormai. Ho provato a giocare le mie carte, l'hai fatto anche tu, sì, non ne hai più. Vince tutto ed io ho perso, ma ho accettato che sia successo a me. Tra le braccia tue credevo di restare, mi sbagliavo io, non era il posto mio. Volevo solo te, il tuo amore puro. Cosa dire ormai, quanto mi illudei. Il gioco avanti va ed io ho perso, ma ho accettato che sia successo a me. Il dado è tratto ormai, il banco ha vinto già, le regole le so, nient'altro chiederò, ma parlami di lei, dimmi dei suoi baci, della voce che parla accanto a te. Forse dentro tu senti quel che provo, niente cambierà, questa è la verità. Triste, ho capito che tu sei qui per me, sei venuto qui a tendermi la mano, ma che vuoi che faccia io, meglio dirti addio, tu tu lo sai, chi vince tutto. Sono scatenati, hai visto? Brava, brava Erika. Grazie. Cara donna, era difficile fare un pezzo simile accompagnata da Sergio dal vivo. Beh, in questa sera accompagnata da Sergio, no, dal vivo in questa sera, in questa serata dal vivo live acustico, che è diverso. È dal molto giusto. Difficile perché dimmi Sergio. È Dario, scusa. Lo ti conosco bene, Sergio, è Dario, scusa. È più difficile interpretarla qui che non sul palco, ovviamente, perché tutta la scena ti porta comunque a un certo stato d'animo, a delle emozioni, e poi a guardare Ale mentre gliela canto, Ale... insomma, cercavo di girarmi, ma sì. Lui mi guardava, ma era difficile. Esattamente, però dimmi. No, è solo questa è la difficoltà, insomma, di farla qua, secondo me, più che non Sergio, che è sempre perfetto, e Dario. Pure, che ci seguono ovunque andiamo. Caro Agostino, quindi... tu non hai visto, però io ho visto, Cesare dava gli ordini in questo momento. Quando Erika cantava, Cesare dava l'input giusto, anche se le altre ragazze non cantavano, erano predisposte in caso ci fosse qualche intervento da fare. Era così, Cesare. Più che altro stavamo già pensando che altra canzone fare, che altra canzone aggiungere. Continuo movimento, lavori in continuo movimento. Esatto. Cesare, giustamente, come mi fa sottolineare Antonella, ricordiamo tutti i vostri dati e anche le promozioni che fate, tipo l'abbonamento, per chi volesse acquistare un abbonamento per i biglietti, eccetera. Sì. I costi, così la gente c'ha proprio un'idea. Allora, diciamo che l'abbonamento ormai è decaduto, visto che con questo spettacolo abbiamo tutto esaurito. Mm-hmm. I biglietti comunque costano per tutti gli spettacoli 10 euro e ridotto per i bambini fino a 12 anni 5 euro. E si possono prenotare i posti nel sito www.sognandobroadway.it oppure prenderli in prevendita andando dentro nel sito si trovano anche tutti i dati dove è la prevendita e tutto, insomma. Le prevendite sono alla Carta Edicola, esatto. Nicola, in via 16 marzo 25, ad Albignasio. Aperta anche la domenica. Vi ricordo il numero telefonico di questa prevendita, 049-710533. Ripeto, 049-710533. Prevendite appunto del Sognando Broadway, Carta Edicola Nicola. Esatto. E poi il sito vostro... Il sito nostro www.muge.it, se volete lì trovate un sacco di materiale nostro, le foto, gli spettacoli vecchi, gli spettacoli nuovi, i video e tutto quello che serve per seguirci nei prossimi spettacoli. Ah, volevo dire una cosa, forse non è ancora sicuro, visto la grande richiesta che abbiamo avuto per questo spettacolo, forse tra ottobre e novembre faremo una replica sempre ad Albignasego di Mamma Mia. Perciò invito tutte le persone che non sono riuscite ad avere il biglietto, ma che vorrebbero averlo, di mandarci una mail alla nostra mail info@muge.it. E in modo che se verrà fatta questa data potremo informarli. Bene. Perché non sappiamo ancora né se la faremo, cioè dipende tutto dalla disponibilità del teatro. E comunque l'idea è quella di farla, visto che abbiamo un sacco di richieste anche per una data aggiuntiva. È una aggiuntiva. Cosa pazzesca questa Mamma Mia, mi sta dando un sacco di soddisfazione. Sì. Poi chissà che non ci vada in porto quel discorso l'altra se va in porto allora va in porto. Allora state facendo piangere le persone, ma non vi vergognate, insomma. Qua dice: ciao ragazzi, vi sto ascoltando dal letto con le cuffiette, bravissimi come sempre, e vi odio un po' perché mi sono già commossa due volte. Un bacio grande da chi? Dania! Ciao Elena, ciao Elena. Benissimo, quindi mi sta ascoltando e vi sempre con quella canzone. Quale canzone? Quella di prima? Sì, sì. Ah, ecco, non lo so. Poi lei è un tratto, è una persona molto ironica anche, quindi insomma è molto allegra come personaggio. Va bene, è arrivato anche Renato con la sua musica. Adesso heavy metal, hard rock, che tra 5-6 minuti andrà in onda. Con cosa ci salutiamo? Dovete dire qualche, facciamo qualche ultima considerazione? Ma non lo so. Ditemi, non lo so. Cioè, allora, la considerazione è che l'entusiasmo è rimasto rispetto all'anno scorso. Certo. Io l'ho visto l'anno scorso, non è cambiato niente. È cambiato, sì, ci sono qualche new entry come l'Alessandra, ma l'entusiasmo è rimasto. Ecco, mi dice Martina che se qualcuno volesse entrare a far parte di Muge, della compagnia, basta che ci scriva una mail sempre a info@muge.it e noi siamo sempre disponibili ad aprirci a tutti quanti. Anch'io? Anch'io? Certo. Ma sei un certo. Po' vecchio te. Devo fare l'ode, Maurizio. Per il prossimo musical ci sarebbe una parte sì. Che tu potresti andare molto molto bene, sì. Secondo me. Ci faccio un pensierino. Mi manca solo questo. Allora, insomma, per quanto riguarda i nostri amici di questa sera, cioè la compagnia Muge, vi voglio ricordare, abbiamo avuto alla chitarra Dario Trevisan. Ciao Dario. Ciao, buonanotte a tutti. Sergio Busone alla tastiera. Grazie, arrivederci, e vi aspettiamo. Sergio, ecco. E poi i personaggi. Questa volta comincio dal mio caro amico Alessandro Papalardo. Ciao Sam. Ciao, buonanotte. E poi ancora la Erika Zanchetta. Ciao a tutti. Che sarà donna nel musical. Alessandra Di Nardo Sofì. Ciao, buonanotte a tutti. Martina Pinton Ali. Ciao. Giulio Di Vittorio Sky. Buonanotte a tutti, a presto. E Cesare Bortolotto Bill. È dimenticata una persona, allora, Rosy. Posta, Rosy, non potevo dimenticare. Sì, ma è in ordine, c'è. Allora, Rosy e Laura Tonarelli. Io, insomma, lei è una persona molto simpatica, oltretutto, Laura, io so che non posso permettere di scherzare. Vai. Tu sai che hai rischiato, perché se ti dimenticavi, cioè, tu avevi finito di vivere. Però toglievo l'amicizia in Facebook. Grazie Laura, però grazie a voi, buonanotte, ci vediamo sabato, E io comunque saluto caramente anche Len, che ci ha appena mandato un messaggio. Ciao Tania, ci sarà lei comunque. Come no, sempre tua fedele amica. La mia compare. Sì. Ma la barca non c'è, però come siete arrivati lì all'isola? Barca. Salutiamo tutti anche, tutta la compagnia. Beh, che certo. Esatto. Io ringrazio Giovanna e Antonella che mi hanno dato una mano qui in regia. Antonella ha fatto anche da segretaria stasera. Grazie Antonella, personaggio che sai che io adoro. E poi ancora Maurizio, noi ci ritroviamo lunedì, ma tu non ci sei. No, io ci sono, però non faccio parte del programma. Io invece ci sarò. Esatto. Abbiamo Cesare Carugi lunedì, un grande cantautore italiano che viene a presentare il nuovo disco. Ci sarà Stefano in conduzione. Stefano in conduzione, invece, per quanto mi riguarda, sarò giovedì prossimo con un nuovo disco di una band friulana, si chiamano Sunrise, sono, ve lo dico già, bravissimi, una musica molto bella, molto romantica, dolce, e quindi vi aspetto alle 21 sempre giovedì qui a Blu Radio Vento. Un buon proseguimento all'ascolto dei programmi di, appunto, Blu Radio Vento, di questa emittente, con Renato Ferro e la sua heavy metal hard rock classico immancabile. La settimana scorsa non c'era perché non stava molto bene, adesso si è ripreso. Adesso salutiamo ancora la compagnia, vi aspettano sabato prossimo alle ore 21, ore 21, eh. Ricordiamo al Pazzetto Polivalente di Ammiasego. Esatto. Devi dire qualcos'altro? Ma adesso finiamo con siete agitati? Emozionati? Tesi? Vediamo sabato. Rifacci la domanda alle 9:05 sabato. Va bene. Ci rivediamo sabato con tutti voi e adesso però ci salutiamo con l'ultima canzone. Che cosa ci fate? Ci salutiamo con l'ultima canzone, che è la prima con cui siamo partiti, che è il nome del, esatto. Mi sembra giusto. Ciao ragazzi, grazie ancora. Ciao. Grazie. Se è finita tra noi, c'è di certo un perché. Sono stata, e lo sai, ingannata da te. Ma sai che c'è, non imparo mai insieme a te. Che mi capita non lo so, prendo fuoco in un attimo. Guardi e sento le campane suonare, parli e mi sento sempre morire. Oh, mamma mia, ci risiamo ancora, mamma, sento che ci casco, mamma mia.